Libiamo, libiamo, vegliati con

felice e te Yeah. Passa il giorno, o il giorno muoia, sempre lieta nel ritmo di me. Vivo quasi in cielo, io vivo quasi in ciel. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te commise? Fu la mia signora. Perché? Che mai sento? Lo spendio grande a vivere coi soletti. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Orma bisogna? Mica Luigi. Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il duca valgo a riparare ancora. Dio mi dia una figlia. te giovina, cui sposo andar doveva, or si riposa il vincolo, che lieti, lieti ne rendeva, de non mutate in triboli le rose della. Le rose dell'amor a prieghi miei resistere, no, no, non voglio il vostro cor, no, no. Non è ciò che chiedo. Cielo, che piace ricadere, offensi assai. Pur non basta. Volete che per sempre a lui rinunzi? E l'uomo? E no, a me! Ai detti angeli Supra non amarlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirammi. Allor. Conosca il sangue. scritto mi lasciava però l'attendo tamen a invadar